Se insisto sulla faccenda del conducente del tram, riprese con tenacia il signor di Charlieu, è perché, a parte tutto, la cosa potrebbe presentare qualche interesse per il ritorno. Mi capita, in effetti, come il califfo che perlustrava Baghdad scambiato per un semplice mercante, da condiscendere a seguire qualche curiosa personcina la cui figuretta m'abbia divertito. Feci a questo punto la stessa osservazione che avevo fatto a proposito di Bergot. Se avesse mai dovuto rispondere davanti a un tribunale, egli avrebbe usato non già le frasi atte a convincere i giudici, ma quelle frasi bergottesche che il suo particolare temperamento letterario gli suggeriva naturalmente, facendo sì che egli provasse piacere ad impiegarle. Analogamente, il signor di Charlieu si serviva col farsettaio dello stesso linguaggio con cui sarebbe ricorso con le persone del suo mondo, esagerandone addirittura i tic, sia che la timidezza contro la quale si sforzava di lottare l'inducesse a un orgoglio eccessivo, sia che, impedendogli di dominarsi, siamo più a disagio di fronte a chi non appartiene al nostro stesso ambiente, lo costringesse a svelare, a mettere a nudo la propria natura, la quale in effetti era orgogliosa e, come diceva Madame de Guermantes, un po' folle. Per non perderne le tracce, continuò il barone, io salto come un professorino, come un grazioso mediconsolo, sul tram della personcina in questione, della quale parliamo al femminile solo in ossequio alla regola, proprio come parlando di un principe diciamo «Sua Altezza si è rimessa in salute?». Se la personcina cambia tram, io prendo, assieme forse ai microbi della peste, quella cosa incredibile che si chiama coincidenza. Un numero che, sebbene lo si assegni a me, non sempre è il numero uno. Cambio vettura, magari, anche 3 o 4 volte. Mi ritrovo alle 11 di sera alla Gare d'Orléans e c'è da tornare a casa. E fosse solo la Gare d'Orléans. Una volta, per esempio, siccome non ero riuscito ad attaccare il discorso prima, sono arrivato proprio fino a Orléans, in uno di quegli spaventosi vagoni dove, fra manufatti triangolari detti reticelle, si ha per unica vista la fotografia dei principali capolavori architettonici della zona. C'era un solo posto libero. Di fronte, come monumento storico, avevo una veduta della cattedrale d'Orléans, che è la più brutta di Francia, e altrettanto faticosa da guardare, così controvoglia, che se fossi stato costretto a fissarne i campanili nella sfera di vetro d'uno di quei portapenne ottici che fanno venire l'oftalmia. Scesi all'Esobré contemporaneamente alla personcina, ad aspettare la quale c'era, ahimè, lungo il marciapiede, l'intera famiglia, mentre io avevo supposto in lei ogni possibile difetto tranne quello d'avere una famiglia. Ebbi come unica consolazione, nell'attesa del treno che mi avrebbe riportato a Parigi, la casa di Diana di Poitiers. Benché abbia fatto innamorare di sé uno dei miei regali antenati, avrei preferito una beltà meno defunta. È per questo, per rimediare alla noia di questi ritorni solitari, che mi piacerebbe conoscere un inserviente dei Wagonslits, un conducente d'omnibus. Del resto non dovete scandalizzarvi, concluse il barone, è una questione di carattere sociale. Per esempio, nei confronti dei giovanotti del gran mondo, come si usa dire, io non desidero alcun possesso fisico. Mi basta, per mettermi tranquillo, toccarli, non dico materialmente, ma toccare la loro corda sensibile. Quando, anziché lasciare senza risposta le mie lettere, un certo giovanotto si mette a scrivermi ogni giorno, è moralmente a mia disposizione. Io sono appagato, o perlomeno lo sarei se non fossi preso ben presto dal pensiero d'un altro. È abbastanza curioso, non è vero? A proposito di giovani di mondo, non ne conoscete nessuno di quelli che frequentano questa casa? No, piccino mio. Ah sì, uno bruno molto alto, col monocolo, che ride sempre e si volta. Non vedo chi possa essere. Jupien completò il ritratto. Charlieu non riusciva a capire di chi si trattasse perché ignorava che l'ex farsettaio era di quelli, più numerosi di quanto non si creda, che delle persone, se non le conoscono bene, non ricordano il colore dei capelli. Ma a me, che ero a conoscenza di questo difetto di Jupien e quindi sostituivo bruno con biondo, il ritratto parve corrispondere perfettamente al duca di Châtellerault. Per tornare ai giovani che non appartengono al popolo, riprese il barone, in questo momento c'è uno strano ometto che mi fa girare la testa. Un piccolo borghese intelligente che con me si comporta in modo incredibilmente incivile. Non ha la benché minima idea di quale straordinario personaggio io sia e a quale microscopico vibrione faccia pensare lui. Ma in fondo, che mi importa? Quel giovane asino può ragliare quanto vuole dinanzi al mio augusto abito vescovile. Vescovile! Esclamò Jupien, che non aveva capito nulla delle ultime frasi pronunciate da Charlus, ma era rimasto stupefatto da quel riferimento a un vescovo. Ma tutto questo, osservò, non ha molto a che vedere con la religione. Ho tre papi nella mia famiglia, replicò il signor di Charlus, e il diritto d'usare addobbi rossi in virtù d'un titolo cardinalizio, giacché la nipote d'un mio prozio cardinale ha trasmesso a mio nonno, in sostituzione, il titolo ducale. Vedo che siete sordo alle metafore e indifferente alla storia di Francia. Del resto, aggiunse non tanto a mo' di conclusione, forse, quanto d'avvertimento, l'attrattiva esercitata su di me dai giovani che mi sfuggono, per paura, ben inteso, già che solo il rispetto impedisce loro d'aprire bocca per gridare che mi amano, richiede da parte loro un rango sociale eminente. E anche così la loro finta indifferenza può produrre esattamente l'effetto contrario. Scioccamente prolungata, finisce col nausearmi. Per prendere un esempio in una categoria che vi sarà più familiare, quando restaurarono il mio palazzo, per non creare gelosie fra tutte le duchesse che si disputavano l'onore di poter dire d'avermi ospitato, andai a passare qualche giorno in albergo. Conoscevo uno dei camerieri del piano. Gli parlai d'un curioso giovane fattorino che chiudeva gli sportelli delle carrozze e che si mostrò refrattario alle mie proposte. Alla fine, esasperato, per provargli che le mie intenzioni erano pure, gli feci offrire una somma ridicolmente elevata perché venisse semplicemente a scambiare quattro chiacchiere in camera mia. Lo aspettai invano. Mi nacque allora per lui una tale repulsione che uscivo dalla porta di servizio solo per non vedere il musetto di quel brutto mascalzoncello. Ho saputo poi che non aveva ricevuto nessuna delle mie lettere intercettate, la prima dal cameriere del piano che era invidioso, la seconda dal portiere di giorno che era virtuoso, la terza dal portiere di notte che amava il ragazzo e andava a letto con lui all'ora in cui sorge Diana. Ma il mio disgusto non è per questo svanito, e quando anche mi portassero quel fattorino come una preda di caccia sopra un piatto d'argento, lo respingerei con ribrezzo. Ma ecco il guaio. Ci siamo messi a parlare di cose serie, ormai non c'è più nulla da fare fra noi di ciò che speravo. Ma voi potreste rendermi grandi servigi, farmi da intermediario, e poi, cosa dico? È bastata questa idea a rimettermi in forma, e sento che c'è ancora qualcosina da fare. Dall'inizio di questa scena, davanti ai miei occhi finalmente dischiusi, s'era operata nel signor di Charlus una rivoluzione altrettanto completa, altrettanto immediata che se l'avesse toccato una bacchetta magica. Fino a quel momento, poiché non avevo capito, non avevo visto. Il vizio, diciamo così per comodità di linguaggio, il vizio accompagna chiunque ne sia affetto al modo di quel genio che restava invisibile agli uomini finché questi ne ignoravano la presenza. La bontà, la doppiezza, il nome, le relazioni mondane non si lasciano scoprire, li si porta di nascosto. Lo stesso Ulisse sulle prime non riconosceva Atena, ma gli dèi sono immediatamente visibili agli dèi, e così il simile al simile, E tale era stato il signor di Charlus agli occhi di Jupien. Fino a quel giorno, nei confronti di Charlus, avevo tenuto lo stesso atteggiamento d'un uomo distratto, il quale, di fronte ad una donna incinta di cui non ha notato la figura appesantita, s'ostina, mentre lei gli ripete sorridendo: «Sì, mi sento un po' stanca in questo periodo», a chiederle indiscretamente: «Insomma, che cosa avete?» Ma basta che qualcuno gli dica: «È incinta», e subito vede la sua pancia, e non vedrà più che quella. È la ragione a spalancarci gli occhi. Un errore dissolto ci munisce di un senso in più. Coloro che non amano rifarsi, come ad esempio di questa legge, ai signori di Charlus di loro conoscenza, sul conto dei quali erano andati avanti per molto tempo a non nutrire il minimo sospetto, sino al giorno in cui, sulla superficie omogenea dell'individuo simile a tutti gli altri, sono venuti affiorando, tracciati con un inchiostro lungamente invisibile, i caratteri che compongono la parola cara agli antichi greci, devono soltanto, per convincersi che il mondo che li circonda appariva loro dapprima affatto nudo, spoglio dei mille ornamenti offerti ai più informati, ricordare quante volte nella vita si sono trovati sul punto di commettere una gaffe. Niente nel viso senza carattere di questo o di quell'uomo poteva far supporre che fosse per l'appunto il fratello, il fidanzato o l'amante di una donna della quale stavano per dire: «Che strega!». Ma a quel punto, per fortuna, il sussurro di un vicino arresta sulle loro labbra l'epiteto fatale. Subitamente appaiono come un menè, tekel, parsin, le parole: «Costui è il fidanzato, il fratello o l'amante, della donna», che non sarà dunque il caso di chiamare strega in sua presenza. E questa nuova nozione basterà da sola a trascinare tutto un gruppo, a far avanzare o battere in ritirata la frazione delle nozioni, ormai completate, di cui disponevano sul resto della famiglia. Un altro essere era venuto invano ad accoppiarsi nel signor di Charlus, differenziandolo dagli altri uomini, come il cavallo nel centauro. Invano quell'essere aveva fatto tutt'uno con il barone. Io non l'avevo mai visto. Adesso l'astratto s'era materializzato. L'essere, finalmente capito, aveva perso di colpo il potere di rimanere invisibile. E la metamorfosi del signor di Charlus in una nuova persona era così completa che non solo i contrasti del suo viso, della sua voce, ma anche, retrospettivamente, gli alti e bassi dei suoi rapporti con me, tutto ciò che fino a quel momento il mio intelletto aveva trovato incoerente, diventava intellegibile, appariva evidente, così come una frase che non offriva alcun senso finché restava scomposta in lettere sparse a casaccio, esprime, non appena i caratteri vengano rimessi nella giusta successione, un pensiero che non potremo più dimenticare. Capivo anche, adesso, come mai avessi potuto pensare, vedendolo uscire poco prima dall'abitazione di Madame de Villeparisis, che il signor di Charlus sembrava una donna. In effetti era una donna. Apparteneva alla razza di quegli esseri, meno contraddittori di quanto non appaiano, il cui ideale è virile proprio perché il loro temperamento è femminile, e che sono nella vita, ma solo in apparenza, simili agli altri uomini. Là dove per ciascuno, inscritta negli occhi attraverso i quali vede tutte le cose del mondo, cesellata sulla faccetta della pupilla, vi è la silhouette d'un corpo, loro non hanno quella d'una ninfa, ma d'un efebo. Razza su cui pesa una maledizione, costretta a vivere nella menzogna, nello spergiuro, perché sa che il suo desiderio, ciò che costituisce per ogni creatura la suprema dolcezza del vivere, è considerato punibile e vergognoso, inconfessabile. Costretta a rinnegare il proprio Dio, giacché, se anche siano cristiani, quando compaiono in veste di imputati alla sbarra del tribunale, devono, davanti al Cristo e al suo nome, difendersi come da una calunnia da ciò che è la loro stessa vita. Figli senza madre, cui sono obbligati a mentire persino al momento di chiudere gli occhi. Amici senza amicizie, malgrado tutte quelle che il loro fascino sovente riconosciuto può far nascere e che il loro cuore, non di rado buono, saprebbe provare. Ma è lecito chiamare amicizie le relazioni che vegetano solo col favore d'una menzogna delle quali il primo slancio di confidenza e di sincerità a cui fossero tentati d'abbandonarsi li farebbe respingere con disgusto, a meno che non avessero a che fare con uno spirito imparziale, se non addirittura simpatetico, che in tal caso, tuttavia, fuorviato nei loro confronti da una psicologia convenzionale, attribuirebbe al vizio confessato anche l'affetto che gli è più estraneo, allo stesso modo che certi giudici suppongono e giustificano più facilmente l'assassinio negli invertiti e il tradimento negli ebrei, per ragioni tratte dal peccato originale e dalla fatalità della razza. E infine, almeno secondo la prima teoria che io ne abbozzavo allora, destinata, come si vedrà, a modificarsi più tardi, e nella quale proprio questo elemento li avrebbe più di ogni altra cosa urtati se la contraddizione non fosse stata sottratta ai loro occhi dall'illusione stessa che li faceva vedere e vivere, amanti ai quali è pressoché preclusa la possibilità di quell'amore la cui speranza dà loro la forza di sopportare tanti rischi e solitudini, giacché si innamorano appunto di un uomo che non ha nulla della donna, di un uomo che non è invertito e che dunque non può amarli, così che il loro desiderio sarebbe perennemente inappagabile se il denaro non facesse cadere fra le loro braccia dei veri uomini. E se l'immaginazione non gli facesse scambiare per veri uomini gli invertiti cui essi stessi si sono prostituiti.